A bordo campo di Dario Ricci. Un altro esposto dei bookmaker alla procura di Bergamo, puntati 10 milioni sul 3-3 a dir poco sospetto tra Albino Leff e Piacenza in Serie B, poi puntate anomale sulla gara Fondi Melfi di Lega Pro, quasi 50.000 euro sul pareggio, e poi ancora Potenza, nuova accusa di illecito, nel mirino la gara con il Gallipoli. Insomma, amici di A Bordo Campo, l'avete capito, basta scorrere i giornali di questi giorni, attenzione massima sul tema delle scommesse lecite chiaramente, ma soprattutto su quelle che possono essere le scommesse illegali, e di questo oggi parliamo a bordo campo. Nostro ospite allora Luca Turchi, dirigente per le scommesse dell'AMS, cioè dei monopoli di Stato. Benvenuto a bordo campo, dottor Turchi. Salve, un saluto a tutti. Allora, dottor Turchi, tema quanto mai caldo, quello del gioco legato soprattutto allo sport e in particolar modo al gioco del calcio, e quanto mai caldo è anche il rischio che insieme al gioco legale riemergano le scommesse illecite. Da questo punto di vista, qual è lo stato dell'arte e quali sono i meccanismi anche tecnici attraverso i quali si cerca di far fronte a questo pericolo? Lo stato dell'arte è questo: già da anni stiamo collaborando con i vari organismi sportivi per segnalare eventuali flussi di gioco che non corrispondono perfettamente alle aspettative degli operatori. Ovviamente intendo dire quando gli operatori diminuiscono in maniera sostanziale la quota e comunque continuano ad avere gioco. E questo meccanismo di interlocuzione che abbiamo lo abbiamo sia con i concessionari legali di Stato italiani, sia appunto con gli organismi sportivi. E cosa è accaduto adesso, per il quale molti hanno scritto sui vari giornali, sui vari mass media? Abbiamo sviluppato, dopo un certo periodo di lavoro, perché è stato necessario, un sistema di controllo che è stato un affinamento di quello che avevamo precedentemente. Un sistema di controllo che, dicevo, ci permette di controllare in tempo reale tutte le partite e il gioco sulle varie tipologie di scommessa che sono su quelle partite. Cosa che prima non avveniva, perché prima controllavamo solo le scommesse singole, invece adesso da qualche settimana abbiamo il controllo anche sulle multiple. Quindi di fatto con questo sistema affinato si può intervenire in tempo reale sulla quota ed eventualmente sospenderla oppure segnalare all'autorità competente questi movimenti sospetti. Allora, i concessionari sono liberi di modificare le quote, di sospendere gli avvenimenti, di fare le loro operazioni, visto che il rischio di banca è loro. Noi, a seguito delle segnalazioni dei concessionari, proprio per garantire gli scommettitori nell'ottica del gioco legale e responsabile, facciamo questa valutazione su tutti i dati che abbiamo a disposizione e poi casomai avvisiamo la Lega, le federazioni coinvolte. Proprio ribadisco una cosa, un concetto: non pensiamo che un flusso di gioco che non corrisponde all'aspettativa, ad esempio, di un concessionario sia equivalente a dire che quella partita possa essere biscottata, uso un termine che abbiamo imparato qualche anno fa, e quindi non facciamo questo assunto. Gioca anomalo, partita taroccata, assolutamente non è vero. Stiamo qui per cercare di evidenziare ogni possibile problema sui meccanismi di gioco, proprio perché in un mercato molto grande come quello delle scommesse è necessario un elevato grado di controllo da parte di tutti. Direi che in questi ultimi mesi proprio le istituzioni calcistiche, no, hanno segnalato l'allarme, si sono rese conto del problema, di quello che inizialmente sembrava un grande business e che lo è ancora, per arricchire anche i flussi di denaro rispetto al gioco, ma che poi è diventato anche in qualche modo una situazione situazione pericolosa da gestire. Da questo punto di vista, come collaborate con Federcalcio e avete Lega Calcio e avete già rapporti ad esempio con l'UEFA, che si è detta molto preoccupata sul tema? Guardi, i rapporti ottimi, devo dire, con gli organismi sportivi vanno avanti da qualche anno. Ribadisco, il controllo noi non è che nasce adesso, il controllo nasce da qualche anno, solo che adesso il sistema informatico e informativo anche dei controlli si è sviluppato proprio per l'esigenza di controllare sempre meglio. Quindi ci sentiamo spessissimo, ci sentiamo ovviamente, visto che le partite sono il sabato e la domenica, inizialmente in via informale, le segnalazioni vengono fatte telefoniche, e un invio di mail e quant'altro, quindi inizialmente c'è un sentirci in maniera informale, poi se necessario c'è una formalizzazione di tutte le informazioni. Parliamo con gli organismi sportivi italiani, ma ovviamente non è escluso che a breve potremmo andare a porre il nostro know-how anche a disposizione degli organismi sportivi europei e internazionali. Ecco, questo vi è già stato richiesto? Al momento non ci è stato richiesto, però qualcosa sotto traccia incomincia a esserci. Tenga presente che all'UEFA addirittura il responsabile di questa attività di controllo è, da quello che mi hanno detto, un ex dipendente di una nota società operatrice nel mondo del betting, per cui la materia la conoscono bene anche all'UEFA. Noi siamo disponibili, anche perché una cosa è importante dire: i dati che abbiamo noi sono i dati del mercato legale in Italia e quindi sono una gran mole di dati, è un elemento molto significativo, riteniamo. Certo, purtroppo, e dico purtroppo, sarebbe necessario che l'analisi passi anche al di fuori di quelli che sono i canali non ufficiali. Infatti abbiamo fatto riteniamo di aver fatto nel passato, a livello amministrativo, anche con le norme primarie che ci sono, ogni azione utile affinché nel mercato legale possano rientrare tutti i vari operatori che ancora lavorano al di fuori del mercato legale italiano. Speriamo che andando avanti ci sia appunto una condivisione di questo progetto e quindi un inserimento degli operatori attualmente non regolamentati in pieno dal sistema italiano in questo sistema. Il presidente dell'Asso Calciatori Mondiale, Leo Grosso, proprio ai nostri microfoni, qualche settimana fa aveva detto, dice, l'UEFA sta pensando anche dal punto di vista della tutela dei calciatori, eccetera, eccetera, a un numero verde riservato appunto ai calciatori dove poter denunciare in forma anonima eventuali tentativi di pressioni sui calciatori. Ecco, crede che, per quella che è la sua esperienza del settore, anche se da un altro verso, crede che questi strumenti possano essere efficaci e fino a che punto? Ma guardi, non mi esprimo su questo, io l'unica cosa che mi sento in grado di dire con certezza è che comunque ulteriori forme di controllo possono essere messe in piedi sicuramente e anche ulteriori forme a garanzia non solo appunto del giocatore inteso come scommettitore, ma anche del giocatore inteso come colui che scende sul campo di calcio, sul campo di basket o quant'altro. Poi ovviamente tutte le attività andranno testate, andranno viste i risultati andranno visti nel corso del tempo. Quali potrebbero essere altri meccanismi altrettanto efficaci o magari speriamo anche di più, ecco, per far capire anche la dimensione delle cose di cui stiamo parlando? Ma guardi, la dimensione del problema forse non la conosce nessuno, proprio perché ho detto ci sono vari canali su cui può andarsi a sviluppare questa problematica. Di certo le riunioni recenti che abbiamo avuto con i vari operatori del settore, parlo sia dello sport che concessionari, porteranno, spero in un medio termine, ad far innalzare i livelli di controllo, ma ribadisco, livelli di controllo che non si innalzano perché ultimamente sono aumentate le partite presumibilmente taroccate, no, i livelli di controllo si innalzano proprio perché il mercato è un mercato dove c'è un